GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Coordinamento di tutti gli enti coinvolti nella prevenzione degli incendi boschivi in un summit questa mattina a Trieste. Udienza di convalida del fermo nel pomeriggio a Pordenone per Severino Sist, l'uomo di Fiume Veneto sospettato per l'omicidio della moglie, Laura Pin. Presentata a Pordenone la rete solidale per la prevenzione oncologica, iniziativa che la Lega Italiana della lotta contro i tumori. Oggi e domani arriva a Trieste Zucchero, alias Sugar Fornaciari, per due concerti in Piazza Unità, varata una serie di disposizioni del Comune per quanto riguarda traffico e accessi. È uno dei maggiori appuntamenti dell'anno per quanto riguarda l'atletica leggera in Regione, presentata a Udine la nuova edizione del Meeting di Lignano. Alle 12.31 minuti e 12 secondi, ancora un cordiale buongiorno dalla Razzani Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. È continuo lo sforzo di tutte le istituzioni per prevenire gli incendi boschivi sul Casso Triestino e Goriziano. Assunti 60 nuovi agenti della forestale, sorvoli delle zone più a rischio, riunioni operative frequenti in prefettura per coordinare tutte le istituzioni coinvolte. L'ultima si è appena conclusa. Non possiamo permetterci un'altra estate di fuoco come quella passata, che ha ridotto in cenere 4.000 ettari di boschi sul Carso italiano e sloveno. Vigili del fuoco, forze dell'ordine, rete ferroviaria italiana, protezione civile e soprintendenza al paesaggio stanno facendo tesoro di quanto successo per ridurre al minimo il rischio incendi, in primis tenendo sotto controllo le eventuali scintille dei freni dei treni. Rete ferroviaria italiana è un partner strategico per la riuscita di questa operazione di prevenzione, ha detto il prefetto di Trieste Pietro Signoriello a conclusione della riunione periodica. Stanno sfalciando la vegetazione limitrofa alla rete e costruendo muretti tagliafuoco nella posizione strategica, utili soprattutto per fermare la propagazione di eventuali incendi. Le forze dell'ordine sono impegnate in chiave antipiromani che si prevede agiranno soprattutto il mese prossimo e sono in parte responsabili degli incendi dell'anno scorso. L'andamento climatico per ora aiuta rispetto alla siccità estrema di un anno fa, ma questo non basta. La regione ha assunto 60 nuovi agenti del corpo forestale, così da aumentare del 50% il personale, ha fatto sapere Massimo Stroppa, direttore dell'Ispettorato Forestale di Udine, Trieste e Gorizia. Prevenire significa anche sensibilizzare la popolazione a partire dalle scuole. E l'ingegnere Agatino Carrolo, direttore regionale dei Vigili del Fuoco, ha parlato di un'iniziativa avviata nella provincia di Gorizia, in particolare negli istituti comprensivi, che si chiama Carso non Arso, perché prevenire, ha detto, è davvero meglio che curare. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. È in programma nel primo pomeriggio l'udienza di convalida del fermo di Severino Sist, l'uomo di Fiume Veneto fermato e condotto in carcere con l'ipotesi di omicidio volontario della moglie Laura Pin, trovata morta nel suo letto mercoledì scorso. Oggi anche l'autopsia, mentre il legale di Sist, Antonino Di Pietro, non esclude l'ipotesi di chiedere una perizia psichiatrica per stabilire lo stato di salute mentale del 75enne che da sabato scorso si trova rinchiuso nel carcere di Pordenone. Il settore di polizia di frontiera terrestre lo scorso 6 giugno in località Ferneti ha arrestato un passer di nazionalità ucraina. Il soggetto è stato fermato per un controllo alla guida di un'autovettura con targa polacca, a bordo della quale si trovavano 4 passeggeri, tutti migranti irregolari. Nel primo pomeriggio del giorno seguente, nella periferia est di Trieste, è stato fermato invece un cittadino serbo. Nel corso dei controlli sopraggiungeva un veicolo con targa croata, il cui conducente, alla vista della polizia, scendeva dall'autovettura e fuggiva nella vicina boscaglia. All'interno del veicolo erano accovacciati 2 bambini e 4 adulti. Non lontano venivano rintracciati altri 6 migranti, di cui 4 bambini dello stesso nucleo familiare. La notte del 10 giugno a Pesa è stato arrestato un secondo passero ucraino che viaggiava alla guida della propria autovettura insieme a 6 migranti irregolari, di cui 3 seduti sui sedili posteriori, uno disteso ai loro piedi e 2 nascosti nel vano bagagli sotto una coperta. Nel tardo pomeriggio del 14 giugno poi un altro arresto è stato eseguito nei confronti di un cittadino croato che trasportava 3 migranti irregolari, 2 iraniani di 14 e 41 anni e un turco di 26 anni. Infine, sempre per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, nei giorni scorsi la polizia di frontiera ha tratto in arresto 2 cittadini ucraini e un serbo, tra i 36 e i 50 anni d'età. I tre cittadini extracomunitari sono stati accompagnati al Coroneo e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Avevano favorito l'immigrazione di 22 irregolari, tutti di nazionalità turca, di età compresa tra i 2 e i 36 anni. L'ufficio immigrazione della questura di Pordenone ha eseguito l'espulsione messa dal prefetto di Pordenone all'ordine di trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio nei confronti di un 34enne cittadino indiano. Il cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale nel 2020 si era reso responsabile, assieme ad un altro indiano, del reato di tentato omicidio doloso ai danni di un altro cittadino indiano, e questo per motivi passionali a Prata di Pordenone. Dopo un tentativo di allontanamento verso la Francia, il 34enne è stato preso e processato e condannato dal Tribunale di Pordenone a scontare la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, scontata la quale veniva disposta l'espulsione. E ora uno sguardo al tempo, cielo sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. Trieste 26 gradi con mare poco mosso con temperatura di 24 gradi, a Udine e Pordenone 26 gradi, a Gorizia 27 gradi, a Tolmezzo 22 gradi e mezzo, a Tarvisio 19 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 21 gradi, a Sappada 19, Piancavallo 18 gradi, sul Monte Zoncolan 15 gradi, sul Monte Lussari 12 gradi, sulla costa a Grado 25 gradi, a Lignano 25, con temperatura del mare nelle due località di 25 gradi. Siamo alle previsioni. Nelle prossime ore il cielo sarà poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, dove saranno possibili rovesci sparsi e qualche temporale, non escluso in serata anche in pianura. A Trieste soffierà la brezza. Domani tempo incerto, probabilmente il cielo sarà in genere variabile, con meno copertura nuvolosa sulla costa. Saranno possibili piogge e rovesci sparsi e intermittenti, sono possibili anche temporali, venti deboli di brezza. Anche gli alberghi hanno ritoccato verso l'alto i prezzi per quest'estate. Abbiamo sentito i primi commenti dei turisti, stranieri compresi. Sempre più turistica, sempre più cara. Trieste negli ultimi tempi ha conosciuto un boom delle visite, sia di turisti italiani che di stranieri, e il costo di un soggiorno, complice anche l'inflazione e l'aumento generale dei prezzi, è sempre più alto. Per il turista che viene da lontano, oltre al prezzo del volo, c'è da aggiungere il rincaro dell'albergo, che varia, a seconda degli studi, dal 10 al 15% in più. Secondo un albergatore che abbiamo intervistato, il prezzo medio di un weekend, solo per la stanza, non può essere meno di 150 euro per una coppia. Se si comprendono anche i pranzi, le visite alla città, il costo sale. Secondo un altro albergatore si parte da 300, ma si possono superare anche i 600 euro a seconda delle categorie prescelte. Questo incremento dei prezzi è stato notato anche da diversi visitatori, soprattutto quelli italiani. Per fare un esempio, secondo loro Trieste è più cara della Spezia, da dove proviene una coppia che abbiamo intervistato, e anche di Reggio Emilia. Un discorso che vale sia per il pernottamento, per i ristoranti e addirittura per le vetrine. Questa sensazione non sembra però condivisa dai turisti stranieri. C'è chi proviene dalla Germania, chi dalla Spagna e chi dalla Repubblica Ceca, ma tutti trovano i prezzi in linea con l'offerta e in certi casi anche convenienti. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Consiglio regionale riunito oggi per discutere, fra l'altro, una mozione che impegna la Giunta a garantire un percorso rapido per chi avanza richiesta di fine vita, a firmarla la minoranza quasi al completo. La questione del fine vita approda in Consiglio regionale dopo la presentazione di una proposta di legge in iniziativa popolare con oltre 5.000 firme raccolte dall'Associazione Luca Coscioni. Si discute oggi in aula una mozione presentata da Enrico Bulian di Patto per l'Autonomia, firmata dall'intera minoranza ad eccezione di Francesco Russo e Andrea Carli del Partito Democratico. Nella mozione si impegna la Giunta a garantire un percorso rapido per chi avanza richiesta di fine vita. Ci sono diverse sensibilità sul tema anche all'interno degli stessi schieramenti politici, sia a livello locale sia nazionale, tanto che il Parlamento non ha mai approvato alcuna legge in merito e vige al momento quanto disposto dalla Corte Costituzionale, che ha dato un via libera al suicidio assistito entro certe condizioni. Alcuni componenti del Consiglio stanno lavorando a un possibile testo di mediazione alternativo a quello dell'Associazione Coscioni, che imporrebbe tempi certi. La giornata in Consiglio regionale è iniziata con l'interrogazione a risposta immediata. Tra i temi toccati, il progetto di acciaieria a San Giorgio di Nogaro. L'assessore Sergio Bini ha detto che non ci sono ragioni per rettificare la delibera della Giunta regionale, che ha di fatto fatto partire l'iter, come chiesto dal Comune di Marano Lagunare. Si è Poi parlato anche della motonave Grado Trieste, servizio che negli ultimi anni ha subito diverse cancellazioni. La Regione, con l'assessora Cristina Almirante, ha fatto sapere di aver ridotto il corrispettivo dovuto all'operatore per il 2020 e il 2021. Una nuova nave più adatta e affidabile sta per essere messa in servizio in sostituzione dell'attuale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il dottor Igor Maria Rifiorati è il nuovo presidente del Tribunale di Trieste. Nato a Udine, 64 anni, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura nel marzo scorso, succede al dottor Pier Valerio Reinotti. Dopo il primo incarico di magistrato di sorveglianza in Piemonte, Rifiorati è stato per oltre 10 anni giudice penale e GIP del Tribunale di Udine. Poi una lunga permanenza alla Corte d'Appello di Trieste con incarichi apicali. Nell'indirizzo di saluto alla cerimonia di insediamento ha ricordato le sfide poste dal PNRR e dalla recente legge di riforma, ma anche la tradizione di efficienza del Tribunale triestino, il valore dell'organizzazione come strumento per ottimizzare le risorse disponibili e quello del lavoro di squadra e della collaborazione per raggiungere i risultati attesi sia nel settore civile che in quello penale. In crescita accessi degli over 65 nei centri di ascolto, definiti i nuovi poveri della nostra società, è uno dei dati salienti del bilancio sociale della Caritas di Udine presentato oggi. È stato definito esponenziale l'aumento degli accessi delle persone oltre 65 anni nei centri di ascolto della Caritas. Una tendenza che ci preoccupa, indica Don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas diocesana di Udine. I nuovi poveri fanno parte del grande mondo degli adulti e degli anziani, aggiunge. Oltre 800 le persone accolte nei 12 centri di accompagnamento diocesano, che offrono sostegno in situazioni di emergenza economica e abitativa. Più di 2/3 donne, in crescita i cittadini italiani. Una cosa fino a 3-4 anni fa impensabile, sottolinea Don Gloazzo. Un dato che emerge dalla presentazione del bilancio sociale delle attività del Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine nel corso dell'anno passato, definito il cuore, l'intelligenza, il braccio della Chiesa diocesana. Altra criticità, i friulani non affittano volentieri le case, è stato sottolineato, ed emerge sempre più il problema di recuperare alloggi per chi ha bisogno. Raffaele Fabris, dell'Opera Diocesana Casa a Betania, lancia anche l'allarme sull'incremento della povertà giovanile. Gli ingressi in comunità evidenziano un crescente numero di giovani in condizioni di fragilità, un tema di povertà economica, di perdita della casa, neo-diciottenni che si trovano in strada, anche italiani, con problemi di dipendenza e salute mentale. L'età media nelle accoglienze comunitarie è diminuita. Negli ultimi 5 anni il 35% dei ragazzi è tra i 18 e i 25 anni, soprattutto italiani espulsi da famiglie con alle spalle percorsi di accoglienza falliti. Udine, Lillo Montalto Morella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha presentato oggi a Pordenone la Rete Solidale per la Prevenzione Oncologica, in collaborazione con le istituzioni sanitarie della provincia. La lotta contro i tumori incomincia con la prevenzione oncologica e va fatta in sinergia con le istituzioni sanitarie del territorio, come il CRO, il centro di riferimento oncologico di Aviano, l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, la casa di cura San Giorgio di Pordenone, in collaborazione con l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia. Il presidente dell'Ordine, Lucchini, ha detto che la classe medica è vicina all'ILT e che ai colleghi serve una proposta formativa al passo coi tempi, perché l'innovazione tecnologica sta cambiando la gestione della medicina. In conferenza stampa è stata presentata la sperimentazione che ha avuto come target i militari della Guardia di Finanza di Pordenone e i loro familiari. In particolare, a partire da ottobre 2021 sono state effettuate visite mediche per la prevenzione senologica alle donne finanziere, visite mediche urologiche per la prevenzione del carcinoma della prostata a militari finanzieri in servizio e sono state effettuate diverse sedute di informazione scientifica sui fattori di rischio dei tumori della pelle, dei tumori al seno e dei tumori alla prostata. È stata data particolare importanza anche ai danni legati al tabagismo e ad un'alimentazione errata. L'obiettivo è ora espandere il progetto ad altri corpi delle forze armate presenti in provincia, con la collaborazione delle istituzioni territoriali rappresentate in conferenza stampa dal prefetto Lione e dall'assessora comunale Cucci. Pordenone, Eva Ciuc, TGR Friuli. Grazie. Venezia Giulia. Alle 12.44 voltiamo pagina. La compagnia aerea Wizz Air ha inaugurato ieri la nuova rotta tra Trieste e Tirana, capitale dell'Albania. Per la prima volta la compagnia Terra Trieste, che è diventata la sua 27esima destinazione in Italia. Biglietti per la nuova tratta sono disponibili a partire da 24,99 euro. La nuova rotta sarà operata due volte alla settimana con Airbus A321 da 239 posti a bordo. Il mese di luglio sarà particolarmente attivo a Trieste per il settore croceristico. Saranno ben 21 le toccate in città delle grandi navi e in alcuni giorni ne saranno ormeggiate lungo le rive 3 contemporaneamente. E ieri è stato segnato il record di movimentazione. Dalla Norvegian sono sbarcate 4.300 persone, mentre sono state 4.700 quelle che si sono imbarcate. La prospettiva per il 2023 è quella di raggiungere i 400.000 passeggeri complessivi. Non si tratta di un record, nel 2022 è stata superata quota 500.000. A riferire i dati è Gianluca Madriz, presidente del Trieste Terminal Passeggeri. Siamo agli spettacoli. Debutta questa sera alle 21 al Politeama Rossetti, sala assicurazioni generali, per la prima volta in Italia, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber, che sarà in scena fino al 16 luglio. Lo spettacolo è prodotto dal Broadway Italia in lingua inglese con orchestra dal vivo e diretta da Federico Bellone. Ramin Karimloe, tra i più stimati interpreti di musica al mondo, è nominato agli Oliver Award e ai Tony Award, i premi più importanti del teatro internazionale. Sarà di nuovo il fantasma, ruolo che ha già ricoperto a Londra, in Corea e al 25esimo anniversario dello spettacolo al Royal Albert Hall di Londra. Zucchero Sugar Fornaciari, il bluesman italiano più famoso del mondo, oggi e domani in Piazza Unità a Trieste per le uniche due date nel nord-est del suo Worldwide Tour, accompagnato sul palco da una band internazionale per una scaletta nella quale sono inseriti tutti i suoi successi. I biglietti per i due appuntamenti sono ancora in vendita sul circuito Ticket One e lo saranno anche alla biglietteria di Via del Teatro dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19 in attesa del live che avrà inizio alle 21.30. Per consentire lo svolgimento dell'evento, il Comune di Trieste ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, tra le quali la chiusura dell'asse viario delle rive lungo entrambe le carreggiate di Riva del Mandracchio, Riva Caduti per l'Italianità e Riva 3 Novembre, a partire dalle 20. Una ulteriore ordinanza dispone inoltre il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore dalle 18 alle 24 nell'area di Piazza Unità. Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, nella sua carriera Zucchero ha venduto oltre 60 milioni di dischi. Oltre ad essere il primo artista italiano a essere esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, è anche l'unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, a tutti gli eventi per Nelson Mandela, di cui è ambasciatore, e al Freddie Mercury Tribute del 1992. Il tour internazionale che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito alla Royal Albert Hall di Londra e all'Arena di Verona con 14 concerti sold out, è ripartito lo scorso 24 aprile dall'Auckland Town Hall di Auckland in Nuova Zelanda ed è terminato con oltre i confini europei all'Opera House di Sydney. Recentemente Zucchero è stato anche ospite a sorpresa sul palco dei Coldplay a San Siro a Milano. E varca il confine sloveno anche quest'anno la festa di poesia curata e promossa da Fondazione Pordenonelegge.it. Oggi il primo incontro alle 21 a Pordenone nel chiostro della Biblioteca Civica, dove leggeranno i loro testi 7 autori, mentre il secondo si svolgerà il 7 luglio a Medana. A presentare il programma è il curatore della festa, assieme a Gianmario Villalta, Roberto Cescon. Dall'anno scorso noi abbiamo raddoppiato gli appuntamenti della festa di poesia che di solito si tiene a Pordenone. Nell'ambito del progetto Gorizia 25, capitale europea della cultura, siamo andati proprio a esplorare, a inoltrarci in questo luogo di traumi, un confine che ha una storia terribile, insomma, perché poteva essere un'opportunità, una bella opportunità. L'anno scorso a Nova Gorica abbiamo sentito leggere poeti in sloveno, poeti in italiano, tradotti entrambi, ed è stata una bellissima sensazione. Queste due lingue che sono portatrici di memorie, appunto, belle ma anche traumatiche, che si parlavano lì nello stesso momento in quella cornice, è stata davvero una bella cosa. Speriamo che possa ripetersi, infatti quest'anno sarà a Medana, ma possa consolidarsi il senso di questa iniziativa che mi sembra buona. e a Pordenone, nel ormai davvero storico chiostro della Biblioteca Civica, leggeranno Francesco Brancati, Maurizio Benedetti, Riccardo Costantini, Francesco De Otto, Enrico Giacomini, Cesare Lievi e Beatrice Magoga. Li abbiamo scelti perché sono giovani, qualcuno più vicino a noi, qualcuno viene da un po' più lontano, in particolare magari Cesare Lievi, noto anche come drammaturgo, insomma autore di testi teatrali, qualcuno friulano, qualcuno veneto. Abbiamo forse l'esordio di Riccardo Costantini, inaudito, prima lui è coordinatore di Cinema Zero, e sentiremo una varietà di voci diverse nell'atmosfera minimale, semplice del chiostro, luce, leggio, voce dell'autore. Alle 12.50 una notizia di sport e blocchi di partenza all'edizione 2023 del meeting di atletica leggera di Lignano Sabbiadoro organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli. Il presidente Danisi ci anticipa i nomi delle stelle che gareggeranno nella località balneare friulana. Ce ne saranno diverse su 120 atleti nazionali e internazionali che parteciperanno, qui va anche detto che si aggiungono nel pre-meeting circa 500 atleti regionali e interregionali per dare spazio anche a loro, provenienti da 24 paesi di tutto il mondo. Abbiamo naturalmente il gruppo dei giamaicani che dal 2006 è presente, sbarcheranno qui a Lignano fra poco, fra una settimana circa, e quindi capitanati da Sherika Jackson, campionessa mondiale dei 200 che correrà i 100 metri insieme ad altri atleti. Nei 100 abbiamo il giapponese Joy Coy, che è stato bronzo ai mondiali, la Dosea Bryan, USA, anche lei bronzo ai campionati del mondo, gli ultimi campionati mondiali sono svolti, e nel mezzo fondo abbiamo atleti, ne abbiamo diversi che vanno sotto l'1,44 negli 800, piuttosto che a livello dei 1500 metri intorno ai 3,34, 3,33,5 atleti, ancora nei 1500 femminili 4,01 della Sullivan, un'americana, e avanti così. Abbiamo dato la data. È fissata per venerdì 14 luglio alle ore 20, avrà inizio il meeting, preceduto alle ore 16 partiranno le gare del pre-meeting, quindi un pomeriggio sera di grandissima atletica. Con la riapertura da parte dell'ente di decentramento di Pordenone della strada della Pala Barzana tra i comuni di Andreis e Frisanco, che appartengono alla stessa comunità di montagna, si mette in sicurezza e si ristabilisce un importante collegamento tra le due valli montane, che assolve a compiti non soltanto di carattere turistico ma anche di viabilità. La strada regionale PN63 di Pala Barzana ha visto completare i lavori di messa in sicurezza finanziati dalla Regione in seguito ad alcune frane e riapre dopo circa 3 anni. Ha un'estensione complessiva di quasi 20 chilometri, nasce nel comune di Andreis e attraversando a nord i comuni di Magnago, Frisanco e Meduno termina in prossimità dell'abitato di Navarons, intersecando la regionale di Passorest sulla direttrice che porta al comune di Tramonti di Sotto. Si è conclusa anche per quest'anno scolastico l'attività del bar didattico dell'ISIS Bonaldo Stringer di Udine, un'attività che grazie alla collaborazione con Confcooperative del Friuli Venezia Giulia ha realizzato un percorso di simulazione d'impresa al quale hanno preso parte 52 studenti dell'Istituto Friulano. Quest'anno allo Stringer la simulazione d'impresa ha visto coinvolti due diversi gruppi di studenti delle terze, quarte e quinte classi aderenti su base volontaria, nuovamente impegnate nell'attività di gestione del bar didattico della scuola, un'attività già sperimentata nel precedente anno scolastico. Il percorso formativo previsto per entrambi i gruppi, un'introduzione all'impresa cooperativa, la predisposizione dello statuto, l'elezione delle cariche sociali e infine un project work di analisi dell'idea progettuale per 12 ore di formazione, cui si è aggiunta ovviamente la gestione vera e propria del bar. Sarà inaugurato domani alle 17 il mercato agricolo di campagna Amica a Barcis. In piazza Lungolago dalle 16 saranno 9 le aziende agricole che proporranno prodotti tipici del territorio a chilometro zero. Il mercato è programmato tutti i mercoledì fino alla fine di agosto. Salumi di suino, birra, formaggi vaccini e di capra, farine, vino, miele, ortaggi e frutta di stagione convenzionali e biologici, cipolla rossa di Cavasso, chiocciole e agricosmesi sono alcuni dei prodotti che potranno essere acquistati. L'iniziativa ha anche l'obiettivo di far conoscere e promuovere in un'area di villeggiatura la migliore offerta agricola del territorio. Alle 12.55 era questa la nostra ultima notizia, ha collaborato in redazione Edoardo Veglia, per la parte tecnica Eugenio Giuffrida e Paolo Cassano. Da Lara Zani e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.